pertanto in questo periodo, da qualche mese a questa parte, visto che l'abbiamo riempita troppo di libri, ci dedichiamo alle iniziative, però spostandoci per la città, e quindi a volte siamo qui al Centro Trevi, altre volte al Teatro Cristallo, qualche volta al Liceo Classico. Colgo l'occasione per ringraziare questa ospitalità in attesa, e stasera siamo in una bellissima cornice del Centro Trevi che si presta particolarmente per la presentazione della rivista Il Cristallo e per ospitare appunto Carlo Bertorelli e il professor Marino Biondi, che viene da Firenze ed è l'autore del libro che è stato distribuito insieme all'ultimo numero della rivista Il Cristallo, dal titolo Scritta da vecchi e giovani. Nell'autunno appunto del 2014 è stato pubblicato appunto il nuovo numero della rivista Cristallo dopo un periodo di pausa, e è una rivista che tutti conosciamo, è presente anche nelle biblioteche e nelle case di molti cittadini. È una rivista che ha una lunghissima vita, cosa non propriamente diffusa e scontata, perché diciamo che è molto difficile mantenere in vita delle riviste, soprattutto riviste di qualità come quella annunciata questa sera, Il Cristallo. Ed è una rivista che abbiamo riscoperto anche noi come bibliotecari, non solo attraverso la lettura, ma soprattutto attraverso altre due modalità: la prima facendo lo sfoglio, cioè prendendo il singolo articolo e catalogandolo. È un lavoro infinitamente grande, ma che ha potuto ampliare, farci conoscere meglio quelli che sono stati gli argomenti discussi e portati avanti da molti intellettuali, prestigiosi, scienziati, attraverso queste pagine in decenni e decenni di attività. Diciamo che l'abilità di questa rivista è stata di chi l'ha diretta in questo lungo periodo, le persone che si sono anche avvicendate, è stata quella di riuscire a catalizzare l'interesse e la partecipazione di persone di grande livello culturale. Il secondo aspetto è quello di poter dimostrare che effettivamente questa rivista tutt'oggi viene richiesta non solo dai cittadini, ma soprattutto anche da centri di studio, da università del resto d'Italia. Quindi è conosciuta su tutta la penisola e viene utilizzata da numerosi studenti per le proprie ricerche universitarie, e questo ci fa particolarmente piacere. Vi ringrazio di essere così numerosi, vi ringrazio soprattutto i nostri ospiti, Carlo Bertolelli, che è il direttore della rivista. Rinnovo il mio piacere di aver conosciuto e incontrato il professor Marino Biondi. Vi invito a visitare anche la biblioteca provinciale, appunto ricordo siamo in via Mendola 5, e avremo anche il piacere di mostrarvi più avanti il lavoro di spoglio di tutti gli articoli di questa rivista. Vi ringrazio e buona serata. Cristallo, Bersanone, Alegna, Amerano, eccetera, abbinandola magari alla discussione di qualche tema e di qualche argomento che sono stati presentati nel numero uscito in dicembre, numero che raccoglieva numero doppio l'annata del 2013 e del 2014. Quindi ringrazio questa disponibilità della provincia, che per altri versi, in altri momenti, purtroppo, ahimè, anche l'anno scorso è stata un pochettino non sempre all'altezza delle nostre richieste e delle nostre attese quanto a sostegno a questa operazione che abbiamo introdotto e lanciato di riprendere questa storica rivista. Rispetto alla politica culturale rivolta alla popolazione della nostra provincia, ecco, si fa molto, ma si potrebbe anche scegliere di fare di più, soprattutto in direzione della tutela, della salvaguardia e dello sviluppo di un patrimonio che, come ricordava per accenni anche la dottoressa Tresan, è uno dei più cospicui che abbiamo. Sono effimere comparizioni di di ricerche, studi o sperimentazioni, ma sono decenni di lavoro portato avanti da figure di prestigio e che dopo la loro, la loro necessaria successione danno lo spazio ad altre persone che vogliono però portare avanti un analogo sforzo di ricerca intellettuale in una dimensione critica, in una dimensione plurale, in una dimensione indipendente. E quindi se purtroppo siamo in una situazione ancora, diciamo così, di transizione, abbiamo comunque voluto dimostrare che siamo riusciti a fare un numero abbastanza importante che ha contribuito a rincuorare gli affezionati e ad avvicinare anche nuovi autori e nuovi collaboratori, e siamo sul campo, nel senso che pur con mezzi abbastanza limitati vogliamo proseguire questo lavoro e portarlo avanti secondo la scadenza semestrale che avevamo indicato, quindi un numero adesso a maggio che sarà il primo del 2015 e un numero poi a ottobre, il secondo del 2015, su cui magari poi sui contenuti e sulle cose più interessanti che ci sono in questi due numeri previsti magari possiamo dire qualcosa dopo, se c'è un po' di interesse, un po' di discussione, un po' di dibattito. Nello stesso tempo c'è stato un editore nuovo, l'editore Alfabeta, che affianca questo lavoro, ringrazio anche Aldo Mazza qui presente, e soprattutto, forse è giusto anche spiegare un attimino il perché questo piccolo instant book che abbiamo allegato anche al primo numero, ed è giusto spiegare perché la presenza anche del professor Marino Biondi qui questa sera, che avremmo voluto già in dicembre, in gennaio, quando abbiamo lanciato e annunciato la ricostituita presenza del cristallo, ma ne aveva impegni e non poteva venire, e poi successivamente insomma è stato possibile fare adesso questo incontro con lui, un libro su Renzi, come è nato il libro su Matteo Renzi, il busto, il libretto l'istantanea, una serie di istantanee come lui l'ha definito, è una origine diciamo così casuale, nel senso che io quando l'anno scorso con la nuova redazione abbiamo cercato di recuperare e riannodare qualche filo con i vecchi collaboratori, giustamente ho trovato subito Marino Biondi, che tra l'altro era il mio compagno e collega all'Università di Firenze in anni molto lontani, e che aveva sempre collaborato con Giuseppe Negri con conferenze e con articoli sul cristallo nel corso dei decenni del secolo scorso, degli ultimi decenni del secolo scorso, e con delle pubblicazioni anche molto specifiche e molto precise. Marino Biondi è uno specialista di letteratura, è un docente dell'università che si è occupato prevalentemente di studi sull'Ottocento e sul Novecento, di storiografia letteraria, e che ha fatto anche recentemente dei testi di una grande raccolta, mi pare, che da Dante ai contemporanei, ha scritto delle cose sul romanzo, me ne è tornata una qua presente che ho voluto farvi vedere, Romanzi nel tempo, bilanci di fine secolo, era stato edito dal Cristallo nel 2004, supplemento al numero 1 del 2004 del Cristallo, con prefazione di Giuseppe Negri e sua introduzione, e tu dici qui, l'ho detto questa mattina, tu dici all'inizio pubblico nel quarto supplemento affidato dall'amico Pino Negri una coppia della serie se tra tutte le date, quindi il quarto supplemento, avevi fatto in precedenza altri tre volumi, e se ben ricordo uno riguardava la promozione le riviste, uno Prezzolini. Quindi argomenti e tematiche che ruotavano attorno al primo Novecento, e in particolare anche il mondo diciamo delle riviste, l'avanguardia letteraria italiana. Però lo specialista di letteratura che si accosta con rispetto e devoto ai grandi, dai classici fino ai contemporanei, fino alle pagine più contemporanee del romanzo, non disdegna in un'altra sua vena più personale, diciamo, e fiorentina, non disdegna altri generi letterari, mi sembra, perché pubblicato un'opera qualche anno fa, Il Signore degli Agnelli, con il gioco di parole, parafrasando Tolkien, dedicato alla figura e alla epopea un po' della famiglia Agnelli, in particolare del patron della tragedia. E poi, quando appunto nei mesi della scorsa primavera, estate, gli ho chiesto se era disposto a rifare qualcosa per l'opera di cristallo, mi ha confessato: sto facendo qualcosa, sto scrivendo qualcosa per mio interesse e passione personale, privata, sul mio concittadino Matteo Renzi, che mi ha incuriosito. E pochi mesi dopo, quando ho finito questa elaborazione, che da quello che ho capito, da qualche anticipazione che aveva mandato, era una scrittura tra il reportage, il giornalismo d'inchiesta, la satira, la parodia, l'analisi dei linguaggi, dei mass media, di un genere che faccio fatica a definire, insomma, l'opuscolo, l'instant era pronto, e anzi lui chiedeva: facciamolo presto, perché sennò passano anche i tempi, Renzi cambia, la politica italiana cambia, quello che era fresco e attuale ieri, oggi, domani non lo sarà più. Nel frattempo uscivano magari anche altri libri di altri giornalisti e scrittori su Renzi. Nel frattempo, noi, dopo l'edizione fatta con Cristallo a novembre, abbiamo visto anche una casa editrice digitale, la Edimedia, sempre della Toscana, che ha pubblicato nuovamente questo testo, rimaneggiato, però è aggiornato, come ampliato, come ha detto Marino Bioni. Quindi tutto questo, cioè, diciamo così, ha accresciuto un po' la curiosità, forse anche in qualcuno, di sapere un po' perché, come era nato questo opuscolo, e come poi nella evoluzione anche della qualità politica del personaggio, così al centro, diciamo così, al centro dell'attenzione mediatica quotidiana, direi, questo interesse è cresciuto, non diminuisce, lo si può valutare in mille modi, quello squisitamente politico e strettamente politico, a quello di costume, a quello di analisi del personaggio, a quello appunto di analisi mediatica e via dicendo. Quindi qualcuno ci diceva: ma perché fate un libro su Renzi, che è stato con, contro, pro, contro? No, non era questo. Noi vogliamo, come Cristallo, è una delle cose che abbiamo detto, analizzare molto come si costruiscono i miti, le mitologie, scavare dentro questi strumenti, questi linguaggi comunicativi che sia nella stampa che nella televisione che nel mondo digitale creano delle mitologie, e quindi avere gli strumenti anche critici per poterle analizzare ed eventualmente respingere o contestare. Quindi finisco dicendo che questa curiosità forse oggi potrà essere soddisfatta, perché abbiamo Marino Biondi qui che può dirci di persona il perché questa scelta e il perché lo ha intrigato la figura di questo suo concittadino, che dalle mura di Palazzo Vecchio ha scalato le mura di Palazzo Chigi con quel memorabile "Lenta, stai sereno, Enrico stai sereno, no? E da quel momento tu dici: ma non c'è più la stessa serenità. La parola serenità ha cambiato significato in Italia. Grazie, scusate. Grazie a Carlo Alberto Renzi, grazie a tutti voi. Avrei veramente desiderato che Carlo si prendesse tutta la serata e illustrasse lui questo libretto, questo opuscolo, perché si tratta veramente di un libretto. Ora racconterò qualcosa come è nato, però mi preme anche dire che con Bolzano, con il Centro di Cultura dell'Alto Adige, con il Cristallo, ho avuto un rapporto lunghissimo, molto familiare, e la memoria di Pino Neri mi è carissima, come quello veramente di un altro maestro incontrato nel corso del mio lavoro. Lo incontrai la prima volta il 20 aprile del 1980, poi abbiamo stretto un rapporto costante. che mi ha portato a collaborare in maniera duratura con la sua rivista, perché prima il cristallo era Negri, e poi rispondendo anche alle sue innumerevoli curiosità, a scrivere in circa 5 volumi, 4 o 5 volumi di supplemento della rivista. Quindi tengo a dedicare questo incontro a Pino Negri e al suo ricordo. Allora, com'è nato questo libretto? Carlo Bertorelle è stato veramente l'ostetrico di una creatura che io non ero sicuro di far nascere. Semplicemente l'ascesa di Matteo Renzi, l'ascesa al potere di Matteo Renzi mi aveva provocato un'esperienza rarissima nella politica italiana, cioè mi aveva comunicato un'emozione. Ora, la politica italiana provoca tante cose, ma è difficile che provochi emozioni, chiamatele se volete emozioni, appunto, come ricordava il grande artista scomparso, per motivi, chissà, essenzialmente generazionali, devo dire. Cioè, vedere questo subquarantenne, trentottenne, trentanovenne, scalare. Inizialmente non mi pare che volesse scalare il potere, ma volesse in qualche modo dimostrare che era finita, ecco, l'ora della gerontocrazia italiana. Ecco, mi provocò qualcosa di simile ad una emozione, come ho detto, e anche una speranza. Quindi io ho scritto questo libretto in base a questi input, essenzialmente. Non sono un esperto di politica, non sono un politologo, sono un cittadino, come molti, probabilmente anche un po' deluso dai rituali di una stanca democrazia rappresentativa, un elettore anche di un partito che definisco nel libro il più epilettico partito europeo, cioè la sinistra in generale, insomma, il Partito Democratico. Ora, vedere questo soggetto che nel 2009 non era, praticamente non esisteva, e salire così in alto come una creatura di romanzo, un bel animo passante, oppure un personaggio di Balzac, ecco, creava una curiosità e una sensazione nuova. E mi ricordo che quando Renzi ancora non esisteva, cioè esisteva naturalmente, è sempre esistito, e poi abbiamo raccolto anche delle testimonianze a Firenze sulla sua attività di collaboratore del padre, che aveva e che ha, non so se ancora, un'azienda della distribuzione dei giornali. E quindi ho incontrato anche in seguito anche dei miei ex allievi, miei ex scolari, che avevano lavorato per lui per la distribuzione all'alba dei giornali nelle edicole. L'azienda dei Renzi aveva questo business, insomma, e ricordavano questo erede, questo rampollo massiccio, vociante, robustissimo, ma soprattutto molto energico, chiamarli al Bar de Anna di Firenze verso le 6:15 della mattina per iniziare la distribuzione. L'energia è sempre stato evidentemente un elemento di questo soggetto, l'energia, la forza, e in quel momento svolgeva soltanto il proprio lavoro, dando del tu a tutti, assegnava a ciascuno il territorio da battere, e da colonizzare appunto con i propri giornali. Poi la Martinica, il cattolico, i cattolici sono tornati naturalmente al potere anche attraverso il renzismo, e la politica lo vede già giovanissimo un segretario della Margherita, però in una città, Firenze, dove è egemone la sinistra appunto di matrice comunista. E lo ricordo anche come presidente della provincia, una carica che equivale, almeno equivaleva, alla invisibilità. E ricordo anche in una circostanza, si dimenticarono di dargli la parola, perché il presidente della provincia sembrava un accessorio. Deve aver accumulato anche qualche frustrazione. Le frustrazioni sono il pane per chi ha la voglia, ecco, di salire e di arrampicarsi per gli 8.000, gli 8.000 della politica italiana, che sono, credo, tra gli Everest più complicati che ci siano nella orografia politica europea. Ricordo che io ho un'intervista a un inviato del Foglio, chissà se Giuliano Ferrari, che poi è diventato uno dei suoi ammiratori letteralmente più sfegatati, e gli ha dedicato una dichiarazione d'amore anche in un suo libro recente, che si intitola Il Royal Baby, Matteo Renzi e l'Italia che vorrà, non che verrà, l'Italia che lui vorrà, mandò una giornalista a Palazzo Medici a Firenze, perché il presidente della provincia, pur non contando nulla, occupa una sala dello straordinario Palazzo Medici Riccardi di Firenze, e lui disse: vede, nello scranno sul tavolo dove sto seduto io, un tempo erano i medici, vede che decadenza. Ecco, ma già che lì c'era un segnale. Tutte cose che mi hanno incuriosito, mi hanno interessato, e credo che di aver scritto questo opuscolo, questo libretto, semplicemente per raccontare anche una narrazione. Matteo Renzi vuol dire un racconto, vuol dire un racconto della politica, o meglio, un racconto esistenziale prima di un boy scout, poi di un boy politico e poi sicuramente di un uomo politico. Io azzarderei anche a dire fuori classe della politica, nel senso, per esempio, ci sono dei giocatori di buon livello, ci sono dei giocatori il cui tocco dimostra una certa, come dire, vocazione giovane, calcio, nel caso di Stefano, e vocazione a giocare il calcio durissimo, il calcio anche sporco della politica in Matteo Renzi. Ecco, io vorrei sottolineare questo aspetto, la narrazione, il racconto. È difficile che altri uomini politici possano essere raccontati. Possono, non so, per esempio, Pierluigi Bersani, che è sembrato una sua vittima destinata, è un uomo di straordinaria simpatia, di grande onestà, sembra veramente il simbolo della emilianità comunista, ma insomma, quando parlava del suo compito, diceva la ditta, ma come si fa a vendere un prodotto come la politica, che dovrebbe essere decisivo per tutti, parlando di una ditta, come uno di quei bravissimi cooperativisti emiliani, che sono dei grandi amministratori, ma poi non sanno raccontare. Voglio dire che Pamino Togliatti, che era il terribile sorsia di Stalin in Italia, diceva: la segreteria generale del PC bisogna darla ai piemontesi e ai sardi. E lui era torinese, Gramsci era sardo, anche Berlinguer sarà sardo, perché hanno un senso veramente della patria sabauda e nazionale. Non agli emiliani, bisogna lasciarli nelle loro cooperative, perché sono degli straordinari amministratori, ma poi non sanno raccontare l'avventura della politica. Io la metto su questo piano semplicemente per dire quali sono stati i moventi, ecco, qual è stato l'input. Devo anche dire, questo secondo me è molto importante, che io ho scritto questo libretto in corso d'opera. È un diario del razzismo, mentre il razzismo letteralmente sbocciava, vagiva, erano i primi vagivi, i primi sorrisi, era un neonato. Ora, quando guardo Renzi ora, vedo che già il potere ha segnato delle rughe, si possono già individuare degli stigmate del potere, che probabilmente non lascia scampo a nessuno. Allora, sto parlando del gennaio, febbraio del 2014, c'erano le doglie, ecco, del lieto evento, ripeto, emozionanti e cariche di speranza. Qual è stato il criterio? Il criterio è stato quello di assorbire, e questo può essere utile a futura memoria, qualunque giudizio possiate dare su questo libretto, a cominciare dal giudizio che hanno dato dei miei colleghi politologi, è superficiale, lo anticipo, ma voleva essere una camminata, una passeggiata sulle superfici, no? Sulle superfici delle acque, perché non c'era, mentre io mi sono messo a scrivere, non c'era nessuna profondità, cioè non c'erano libri. Mi ricordo che li cercai, ma di fatto non c'erano. Ora c'è una piccola biblioteca del razzismo, poi magari posso darvi qualche indicazione, visto che faccio di mestiere il bibliografo di letteratura, ho raccolto ovviamente anche una biblioteca di titoli razziani, ma quando mi sono messo a scrivere c'era soltanto la superficialità, che però ha qualcosa, come dire, di abissale. In Flaubert diceva: non c'è niente di più abissale del vero superficiale, perché non riesce ad andare oltre la superficie. Ora ne sappiamo tanto di più. All'epoca non sapevamo quasi nulla, e quindi veramente si camminava sulle acque della cronaca, si camminava su delle superfici senza spessore. Allora, come è nato questo libretto? Ripeto, non c'erano libri, non c'erano biografie, c'erano degli articoli, naturalmente, articoli di fondo. E questo libretto è una eco della stampa. Ecco. Può essere utile a uno storico, anche a un biografo, perché mi misi a raccogliere, come se fossi un terminale sensibile, l'avrebbe potuto fare chiunque naturalmente, i giudizi, le prime argomentazioni che gli editorialisti deversavano. Articoli, i grandi giornali naturalmente, Repubblica, giustamente è stato detto che cito troppo Scalfari, e mi è stato anche detto: non basta Scalfari che si cita da solo, tu lo citi ulteriormente, quindi c'è un tasso di scalfarismo eccessivo. Anche perché ogni domenica Scalfari ha dedicato un lungo pensamento, una lunga riflessione di quelli che fa lui da ultimo, cioè lunghissimi, a Matteo Renzi, determinando quasi un genere giornalistico letterario. Accetto o non accetto? Sto con Renzi o mi dissocio da Renzi? Ogni settimana il dilemma si riproponeva. e quindi io non facevo altro che raccogliere appunto come pollicino appunto queste molliche di pane per vedere dove andava a finire Scarfari. Non è ancora finito di sciogliere la propria l'ultimo articolo era di nuovo un interrogativo. Scarfari ha spostato ormai il suo osservatorio sull'unico grande italiano che gli interessa, ed è Mario Draghi, e non certamente Matteo Renzi. E gli articolisti, quindi, il Corriere della Sera. Ho seguito un po' la temperatura degli articoli del Corriere, positivi all'inizio, quasi tutti i giornali, proprio le espressioni anche più classiche del giornalismo italiano, la stampa anche, tutti pro Renzi. Però ho notato, per esempio, che nel settembre scorso il Corriere ha cominciato a rompere questo fronte di solidarietà con quell'articolo di Ferruccio De Bortoli, in cui si dichiara esplicitamente per la prima volta un inizio di disamore. E questo libretto fotografa l'amore, diciamo così, ecco, la cotta iniziale. Che tende, per le fatali leggi anche dell'entropia, a perdere progressivamente calore. Voglio dire che oggi non lo scriverei, voi potreste dire, bene, non perderemo nulla, però sta di fatto che una certa stagione poteva anche suggerirla, un'altra no. Quindi vuol dire che è un libro di occasione, è un libretto di occasione. È come la frutta, ecco, di una certa stagione, saporita, perché è sincera. Ecco, in un altro momento, in un'altra epoca, perderebbe sapore e sarebbe insincero. Però l'utilità sta proprio in questo, è un momento di speranza della storia italiana. E questo credo possa essere messo agli atti. Naturalmente, raccogliendo queste voci, ne ho raccolte tante, dalla televisione, dai giornali, dalle riviste, ripeto, dai media, non dalle biblioteche. E ho potuto verificare che permane sempre in Italia una forte tendenza divisiva e antagonistica. Forte, antagonistica. E quindi non tutti, neanche in quel momento in cui ho parlato di emozione, in cui ho parlato di speranza, in cui Matteo Renzi ha fatto delle performance politiche a mio modo di pensare memorabile, come il suo primo discorso al Senato. Non ho mai sentito niente di più trasgressivo e di veramente ribelle, tanto da stropicciarmi gli occhi, ma evidentemente queste sensazioni non le hanno sentite tutte. C'è la sinistra antagonistica è ragionata fin dal primo momento. E quando dico sinistra antagonistica, intendo non tanto la sinistra di Sella. La sinistra di Sella si è resa conto di una cosa quando è apparso Renzi, che era finita la narrazione di Michi Vendola. Anche Michi Vendola è un narratore. Narratore raffinato, che ha sempre raccontato la sua esperienza politica come un racconto, come il capitolo di un romanzo tardo pasoliniano. Era finito il suo racconto, era finita la sua narrazione, perché ne subentrava un altro. Evidentemente nella politica nazionale c'è posto per un racconto solo. C'è stato anche un racconto che è spiaciuto a metà degli italiani, che è piaciuto ad un'altra metà, del romanzo del Sia di Arcore, anche quella è stata una narrazione. Cioè, voglio dire, la politica è cambiata profondamente. Gli interessi che la politica tocca rimangono gli stessi, e provoca dolori, lacerazioni, conflitti, e vediamo che i conflitti sono estremamente seri anche all'interno del PD, tanto che da ieri si parla di scissione. Però bisogna rendersi conto, per capire che cosa sta accadendo, e quindi il mio libretto può dare a qualche così qualche contributo in questa direzione, che non è più il tempo delle organizzazioni politiche tradizionali. È ormai dal 1994, da quando in tre mesi un tycoon televisivo conquistò il potere, nel marzo del 1994, le leadership raccontano ciascuno la propria storia, fino a che riescono a, come Scheherazade, a tenere sveglio l'uditorio politico, l'uditorio elettorale. Ora, se c'è uno che sa raccontare la propria storia, ancora credo sia Matteo Renzi. La narrazione. E ci sono degli schemi. C'è uno schema nella narrazione di Renzi. Non si parla più in termini di interessi conflittuali in gioco. Lo schema unitario è quello dell'armonia. Il suo disegno è proprio armonico, è compositivo. Qui il mio libro in qualche modo si ferma, perché non aveva gli elementi per analizzare quello che poi sarebbe diventato un metodo. Ma ho letto recentemente due libri che accanto al mio così creano già una piccola biblioteca, e che vi indico. Uno è L'intoccabile, Matteo Renzi, la vera storia, pubblicato da Davide Vecchi, nella biblioteca dei documenti inediti di Chiare Lettere, che fa parte del gruppo Garzanti, insomma, di un grande gruppo milanese. La prefazione di Marco Travaglio è il sigillo. Marco Travaglio è il Saint-Just della politica italiana. È l'attivista, anche giustiziere. Qui si limita a scrivere la prefazione e affida a Vecchi una ricerca. Beh, è una ricerca che mi sarebbe stata ovviamente utilissima nel momento in cui mi mettevo a scrivere, perché era emozionante vedere questo ragazzo. L'emozione stava nel fatto che era così giovane e così innocente, tra virgolette. Ecco, il libro di Vecchi è già in retroscena. La vera storia, ora non ci sono delitti, non ci sono crimini, però effettivamente c'è la costruzione del potere da parte di Renzi e da parte del suo clan, con un metodo raffinatissimo e quasi scientifico. Anche qui, anche questa è una lezione. Renzi, quando si è presentato, sembrava nuovo ed era un usato alla politica, sicuro in qualche modo che la scalata, ecco, a questo 8.000, sarebbe stato favorito da una grande organizzazione di sherpa di Mabegane. Il libro di L'Intoccabile contiene un giudizio apparentemente solo in parte condivisibile, ma quello che conta è la costruzione del clan Renzi. È una costruzione che Renzi comincia fin dagli anni della provincia con una mentalità americana dello spoil system. Sa di prepararsi una squadra. Questa squadra dovrà imparare in qualche modo il linguaggio del capo. Sarà a geometria variabile. Un vertice non potrà variare mai la superiorità ontologica del capo. E qui incontriamo gli uomini che costituiscono la sua forza. Uomini e donne. Il dolce rinnovo del renzismo al potere è la soave Maria Elena Boschia. Il dolce rinnovo, Renzi aveva scritto un libro quando ancora non lo prendevano neppure in considerazione, dal titolo Stil Novo, dove aveva riflettuto sulla dolcezza, la beatitudine che le donne portano, specie se belle, ma anche intelligenti, perché la bellezza della Boschi va insieme anche ad una certa abilità, perlomeno, a un certo impegno anche nell'imparare la parte, ma appunto già in quel libro, Stil Novo, è uscito nel 2010, un libro che allora sembrava folklore, Renzi già pensava alla costruzione di un milieu, di un ambiente all'insegna della competenza, della bellezza, a sostegno del suo potere, di una corte anche, di una corte medicea, quindi quel rimpianto della bellezza medicea non era soltanto una nostalgia. Uomini fidatissimi. Uomini che hanno contato molto per lui, come Marco Carrai, per esempio. Marco Carrai adesso a Firenze è diventato quasi il simbolo dell'Arcana Imperi, del consiglione, come si dice, il consigliere del principe, essendo appunto Firenze città di matrice machiavelliana, ecco queste fantasie sorgono subito, no? Accanto a Cesare Borgia, Cesare Borgia pacifico, non guerrafondaio come Renzi, un consigliere esperto, un consigliere abilissimo nel entrare, uscire dai consigli di amministrazione. Marco Carrai è stato un suo maestro, un suo sostegno. Gli ha insegnato che cos'è la finanza, gli ha insegnato che cos'è il potere, che cos'è il denaro. Le osservazioni che si possono fare riguardano proprio questo. Ora, Renzi, io credo, mi auguro, tutti ci auguriamo, che non si farà sporcare in prima persona dal denaro, ma sicuramente dà un peso notevolissimo alla potenza finanziaria. Ha deciso di costruire un partito di sinistra che fosse anche fraternamente congiunto ai finanzieri. È la quadratura del cerchio, probabilmente. Dall'altra parte c'è una sinistra per cui il denaro è lo sterco del diavolo. Per Renzi, ecco, la partita si gioca su queste sfide. Davide Serra, il finanziere della City, che gli è stato presentato da Carrai, è andato a scuola da questa, come dire, da questa deriva anche finanziaria dei poteri economici. Allo stesso modo in cui ha giocato la carta, una carta anche quella difficile da gettare sul tavolo, di Macchione, diventato l'obiettivo l'antagonista, ecco, della sinistra e della sinistra di classe e della Fiomma è diventata una sua sponda americana. Il disegno è questo. Il disegno è quello di una sinistra egemone, perché è una sinistra che controlla, ecco, le parti che prima erano divise in conflitto e parti che, come dire, divise in schieramenti di partito. Quindi il libro di Tocqueville ci spiega il disegno, torna indietro, ci fa capire anche che ci sono degli elementi Renzi genetici del berlusconismo. Il fatto che Renzi abbia partecipato ad una puntata di una trasmissione di Mai Buongiorno, abbia portato a casa anche un certo peculio, aveva vinto circa 43 milioni una ventina di anni fa, perché un suo parente stretto, parente Nicola Boldi, se non sbaglio, era uno dei vertici di Mediaset. Tutte cose che abbiamo, come dire, abbiamo scoperto poi, che ci siano delle affinità elettive, che chiaramente ci sono delle affinità elettive tra quel padre e questo figlio. Il Papa del Nazareno è nato di lì, da questa affinità, e poi in qualche modo è entrato in crisi nel momento in cui il figlio si è giocato la partita del Quirinale in maniera autonoma, dimostrando di sapere giocare in maniera più spregiudicata di quello che era stato il suo padre adottivo. Cioè, il razzismo è anche questo, è una deriva che io però mi permetterei di ritenere autonoma, non servile del berlusconismo. Quello di cui dobbiamo renderci conto è che dobbiamo fare i conti con questo tipo di politica. Narrazione, spettacolo, storia, rappresentazione di sé. E è una politica che a chi ha vissuto un altro tipo di politica etica, combattiva, può anche non piacere, ma questa è la politica che continua il berlusconismo in altre forme. Lo si è visto anche nel momento in cui Renzi, già nel marzo-aprile, si sottoponeva all'operazione che Berlusconi fece con i suoi giornali, quando pubblicò la storia della sua sacra famiglia spedendo un numero sterminato di copie a tutte le famiglie italiane. Renzi ha fatto qualcosa di analogo, però non ci ha messo denaro. Si è sottoposto alla rappresentazione fotografica e agiografica dei giornali del gruppo Berlusconi, e chi ha per la prima volta come dire, scattato una foto su Renzi e la First Lady, su Renzi e la sua famiglia, su Renzi e i suoi figli. Evidentemente questa scelta è una scelta in continuità, in un certo modo dinastico, regalo democratico di interpretare la politica. Ripeto, può spiacere, e quindi l'antagonismo è soprattutto un antagonismo di modelli, è soprattutto un antagonismo determinato dal disgusto di educazioni così diverse che non sono fatte per comprendersi. Lui lo sa, ma ritiene che sia irreversibile, ecco, questo tipo di evoluzione formale della politica. Poi possiamo ragionare sulla eventuale involuzione etica della profondità del lavoro politico, però sta di fatto che lui cura ormai una politica di leadership, dove quello che conta è l'immagine del capo e sotto il capo c'è una organizzazione che cambia nel momento in cui il potere del capo si oscura, viene sostituito da un altro capo che si porta presso un'altra corte. Il risultato è stato che con questi giochi di prestigio una sinistra che sembra essere fatta anche con il contributo decisivo degli elementi di una politica di destra, ma è la politica dell'immagine in cui tutti noi siamo immersi, tutti, destra, sinistra, centro, perché poi dobbiamo prendere atto di questo. Il partito prima indicava soltanto una quota di elettore, sta diventando un partito nazionale, cioè il Partito Democratico di Renzi viene quasi gonfiato come un partito della nazione. Come vedete, l'ambizione del ragazzo è un'ambizione vera, autentica, è un'autentica sfida. Può finire bene, può finire male. Vediamo che lui porta nell'agone politico anche un altro tipo di carta, che credo che gli italiani sostanzialmente apprezzino: il rischio. Il rischio di perdere la partita e di far saltare il tavolo, e di oscurare le luci e di andarsene. La continuità che è stata tipica del potere italiano, la continuità garantita da un'infinità di rituali, tutti finalizzati alla continuità, al conforto della continuità, al camminare con una rete sotto, una rete di alleanze, una rete di coalizioni. Ecco, questo funambolo almeno dà l'impressione di aver eliminato dai suoi circensi questi elementi di sostegno e di protezione. E molto spesso dà l'impressione di un'acrobata sul filo. E vi ricordate, quando eravamo bambini nei paesi c'erano gli acrobati, e quando guardavamo non sapevamo se sperare che ce la facessero ad arrivare fino in fondo, oppure se lo spettacolo fosse stato più frizzante, se quell'acrobata fosse caduto dal filo. Ecco, a volte la politica italiana dà questa impressione. Siamo tutti con la testa per aria a vedere questo uomo che sfida la gravità. Dicendo che la fine di quella gravità tutto punta alla fine della legislatura, come se la fine della legislatura fosse il termine, ecco, del suo deambulare così, così periclitante, così rischioso, ma anche così eccitante. Ecco, mi rendo conto di avere descritto soprattutto una fenomenologia e di non aver fatto forse quella analisi che non sono in grado di fare e che altri uomini politici potrebbero fare, mica altri politologi potrebbero fare. Io ho cercato di cogliere quello che per me è la novità del renzismo. La novità è questa: la politica del renzismo presenta poi una serie di vuoti, una serie di voci inesaudite, una serie di proclami che non sono stati concretizzati, che sono sotto gli occhi di tutti. Noi sappiamo appunto che la narrazione non significa che le cose che si raccontano in un romanzo siano poi vere per il lettore. Il lettore si identifica nei personaggi di romanzo. Siamo ancora in una fase di identificazione romanzesca in una narrazione. e penso anche onestamente, e leggo le ultime tre righe a cui rimarrei sostanzialmente fedele del mio libretto, che Renzi stia ancora vivendo il suo mercoledì da leone. Francamente, per tutti noi non gli auguriamo un'onda assassina. Ecco. La storia del cristallo è stata sempre anche storia di diciamo così, di impegno politico, ecco, diciamo, di impegno politico, di impegno civile sulla attualità attraverso le forme di discussione e di attraverso quella che è la missione, diciamo così, del critico, come diceva Sanguinetti, che magari si esercita in un campo, quello della letteratura, quello dell'arte, ma che è comunque a tutto campo, ecco. Quindi non so, tu hai perso un po' i contatti, diciamo, con la realtà tortesina negli ultimi anni, ma questo con quel libro di nove recuperare, consentire anche a chi fosse rimasto fuori di recuperare tanti argomenti e tanti. Quindi erano aggiornamenti sulle cronache politiche, no? Delle cronache politiche altoatesine, la provincia difficile, quindi erano manifestazioni di studio, di analisi proprio della dimensione politica, no? Questa continua con altri contributi anche nel corso di quest'anno e dei prossimi anni, così come avremo nei prossimi numeri degli interventi anche sulle elezioni regionali, sulle elezioni comunali, anche con un dibattito e un contributo introdotto anche dal qui presente Gianni Lanziger proprio sui fondamentali di una nuova politica e di una nuova amministrazione e gestione della vita della città e delle città e dei territori, no? Introduzione al futuro si chiama il contributo che ha scritto Gianni per Lanziger per il prossimo numero. Ma poi insomma anche altri temi, per esempio vogliamo fare una presentazione, una possibile giornata e critica della produzione letteraria, della poesia, della prosa, sia di lingua tedesca che di lingua italiana di questa provincia. Il prossimo numero apre un po' questo laboratorio, il Roland Verra con uno studio sulle ultime produzioni nel campo letterario latino, in lingua latina. E dal numero di ottobre, grazie a contributi di Costanza, Salviaro, Banda forse e altri, cercheremo di fare il punto su quella che è la variegata condizione. Questo è l'anno in cui, non so, persone come Josef Zoderer verranno festeggiate per i loro 80 anni di scrittori, è l'anno in cui vediamo avere un exploit letterario scrittori in lingua italiana dell'Alto Adige, come Lili Gruber con il suo Eredità, con il suo Tempesta, che ha avuto straordinario successo e che saranno analizzati proprio nei prossimi numeri, ma così come la Melandri e così come altri scrittori magari non residenti qui, ma che parlano delle vicende di qua e che nascono e che scrivono, e che insomma, questo sia nel campo italiano che nel campo tedesco e così via. Nel campo del teatro, questo numero avremo un'intervista molto articolata e specifica con il regista Bernardi, fatta da Massimo Bertoldi, che lo interpella su tutta la lunga storia della sua regia teatrale alla direzione del Teatro Stabile di Bolzano. E avremo interventi anche sulla vita musicale, come quello di Vania Zappetti, un promoter musicale, storico della musica, nonché manager, che interverrà sulla musica leggera, sulla musica pop, rock, pop e il consumo, la fruizione musicale nel nostro territorio. Così su tante cose, insomma, questi sono alcuni degli ambiti, il sociale con interventi sulla realtà dell'innovazione, della ricerca in Alto Adige, per l'impresa e per il mondo del lavoro, che cosa porta l'innovazione nella trasformazione del lavoro e quanto poco si faccia ricerca nella nostra provincia, quanto poco dell'investimento pubblico e privato sia destinato alla ricerca rispetto a tante altre province risultate, anche quella più vicina del Trentino, che dedica percentuali molto più alte. E poi un'analisi dell'università, ecco, anche lì dopo 10-12 anni che abbiamo l'università a Bolzano, la LUB, fare il punto sulla sulla presenza di questa università, sulle sue prospettive, sui suoi deficit e via dicendo. Abbiamo degli elementi di storia locale, come anche una storia della psichiatria in Alto Adige, che curerà un dirigente della sanità pubblica, esperto, che ha seguito tutta l'introduzione della nuova metodologia sanitaria nel campo della salute mentale, come Aldo Pantozzi, e avremo gente come Arnaldo Loner che parla del processo fatto a Saifa per la zina dell'area di Viareggio. Quindi storie locali che si intrecciano con storie nazionali, storie di resistenze, storie di attualità. Ci sarà una lunga rievocazione anche curata da Marco Boato sulla figura di Alexander Langer, che quest'anno, diciamo, da 20 anni ci manca, e sono 20 anni la città, la provincia forse posteranno anche qualche momento celebrativo, ma vorremmo già dal numero di, dovrebbe già uscire nel numero di maggio, una ricostruzione biografica, a distanza, una ricostruzione della sua biografia intellettuale e politica. E con cose poi recensioni, cose più leggere, cose testimonianze, ecco, testimonianze anche di Bolzanini, di intellettuali altoatesini che lavorano e vivono all'estero, che lavorano nelle università, che lavorano nei centri di ricerca, Fabio Marcotto ad esempio da Odessa, qualcun altro da Riga, dalla Lettonia, dalla Estonia, che sono in qualche modo un ponte, ecco, tra la realtà nostra e realtà per certi versi simili, per certi altri lontanissime, in cui questi altoatesini vivono, collaborano e continuano a voler tenere anche in qualche modo dei legami. Quindi in questa prospettiva, ecco, c'è la voglia anche di allegare poi alla rivista questi momenti monografici di attenzione a un tema specifico. Questa volta è stata l'analisi sulla fenomenologia renziana, la prossima volta saranno altri temi, altri argomenti con i quali la rivista vuole concentrare la sua attenzione magari su un punto, ecco. Il Centro di Cultura della Pace fa poi anche altre attività come appunto le conferenze, i libri, adesso è stato uscito un altro libro dopo quello di Nove, un altro libro sempre di Alfabeta che riguarda, pubblicato dall'editore Alfabeta, che riguarda invece la realtà dell'Alto Adige, ed è un libro dello storico Giorgio delle Donne, 5 pezzi facili sull'Alto Adige, su Tirol, che raccoglie e pubblica alcuni interventi su alcune questioni spinose della vita di questa provincia, come la questione della toponomastica, la questione dei monumenti e altre questioni. Abbiamo ancora un po' di tempo, se qualcuno, approfittando della presenza di voi, vuole aprire un po' di discussione anche sulla questione Renzi. Apriamo il ghiaccio. Abbiamo ancora quattro ore. Innanzitutto io devo ringraziarla. Devo ringraziarla per la sua introduzione riguardo al riferimento che ha fatto mio padre, quindi mi sembra estremamente grave. La domanda che volevo farle è questa: il fenomeno Renzi non ritiene abbia avuto, indipendentemente da quello che sarà l'esito, indipendentemente dal fatto di condividerne o meno, sia il modo operativo sia la sostanza, non ha avuto forse il merito di evidenziare quali sono i limiti del nostro concetto di democrazia, considerato che nel mondo ci sono tanti paesi democratici, ma ognuno ha una democrazia che viene gestita in un particolare modo. In particolare mi riferisco al modo Italia, laddove la democrazia dovrebbe dire che la maggioranza deve poter fare ciò che vuole, a discapito anche della minoranza. La minoranza non è che debba non essere sentita o ascoltata, ma all'atto, a un certo momento, bisognerà pur prendere una decisione, e questa si fa a maggioranza. Non le sembra che il fenomeno Renzi abbia messo in particolare evidenza la criticità di questo concetto di democrazia che pare aver invaso fino all'altro ieri l'Italia, laddove di fatto la minoranza bloccava la maggioranza? Grazie. Non sono d'accordo su questo. La politica di Renzi è quella di recuperare il valore della decisione come punto finale della discussione politica. La decisione, il leader è tale se decide sentite tutte le parti. Il punto è questo, e quindi io condivido questo. Cioè, la nostra democrazia è stata effettivamente una democrazia bloccata da molte interdizioni, da molte rendite di posizione anche. Dal fatto che la parola decidere fin dal tempo del craxismo veniva letta in modo negativo, decisionismo, cioè veniva letta come autoritarismo, come esercizio di autorità. E Renzi deve convincerci che la sua decisione è un esercizio di responsabilità. Quindi io sono d'accordo con quello che lei dice. Il fatto è che molti osservatori, anche l'ultimo libro di Sofia Ventura, che si intitola appunto Renzi e Co, è l'ultimo libro uscito su Renzi, pubblicato da Cubettino, lei sì, è una politologa di Bologna, analizza appunto questa capacità di Renzi di arrivare alla sintesi della decisione. Ritiene che molto spesso non convinca perché di fatto non sente le parti o non sente tutte le parti. Questo è il punto. Quindi sono d'accordo con lei, il leader deve pervenire ad un esercizio di decisione, ma quella decisione non deve apparire mai come una forma di decisionismo arrogante, deve essere la sintesi complessa di molti ascolti, ma che gli ascolti siano reali. Ecco, questo è il punto, non so se ho risposto. L'altro punto è questo, nel mio libretto uno dei pochi testi che cito è quello di un politologo americano a cui è stato avvicinato Renzi, è il teorico della poliarchia, cioè le nostre democrazie complesse in realtà sono delle poliarchie, cioè sono interessi di parte, ecco che il leader deve in qualche modo ricomporre. Addirittura sono democrazie fatte di lobby, ecco, lobby di interessi. Ora, gli interessi che Renzi si trova a comporre sono interessi tradizionalmente avversi in Italia, cioè nemici. Il palazzo della Confindustria e il palazzo della CGIL a Roma sono considerati due potentati inavvicinabili. L'operazione che lui tenta è un'operazione di sintesi fra questi interessi effettivamente estremamente difficili da avvicinare. Il punto è questo anche, che il linguaggio di Renzi, e questo mi pare indiscutibile, è più vicino allo stile del linguaggio confindustriale che al linguaggio vetero-sindacale. È una questione proprio di linguaggio, è una questione di stile. E questo ovviamente crea tutti i problemi che la mia fenomenologia certamente non ha composto. Io ho descritto soltanto una serie di rilievi che si possono fare, ma i conflitti ci sono ancora. I conflitti ci sono ancora tutti. Per quanto riguarda la decisione, però, credo che sia giusto che un leader debba caricarsi della decisione e credo anche che sia giusto il superamento del dei cosiddetti tavoli di codecisione. Ecco. Renzi ha spazzato via i codecisioni, ha detto più volte che il sindacato lui lo rispetta, è fondamentale, però ha detto che non può dettare le leggi, quindi non può dettare neanche le decisioni. Il lavoro che fa è un lavoro, ripeto, a metà tra interessi e linguaggi. Il linguaggio che gli è più vicino è il linguaggio della democrazia confindustriale o della democrazia finanziaria, piuttosto che di quella sindacale, perché quella sindacale gli appare arcaica, gli appare lettera. È un po' qui la satira politica aiuta di più di un saggio. Quando Crozza ci fa vedere che la Camusso ha ancora i gettoni del telefono, ecco, altro non è che una sottoscrizione di arcaicità formale, di arcaicità nella comunicazione. Il comizio delle bandiere russe, da una parte sono un patrimonio, e in questo paese sono un patrimonio che ha una grande storia, un patrimonio degno di assoluto rispetto, a volte di assoluta venerazione. Però sta di fatto che sono riti che sempre di più appartengono al passato. Ecco, la decisione di Renzi è in cima a tutta questa serie anche di tradizioni. Questo è un paese dove ciascuno ha le sue tradizioni, ed è per questo che è un paese molto conservatore. Anche la sinistra è molto conservatrice, perché tiene a conservare le proprie conservazioni, i propri patrimoni, i propri valori, tende a conservarli, a proteggerli, a difenderli. La mobilità appare superiore alla parte del potere finanziario, perché il potere finanziario è effettivamente molto più mobile, non è legato a tradizioni, è legato soltanto ai mobili interessi del capitale, quindi sembra sempre più moderno e più vincente. Insomma, ci sono una serie di cose che naturalmente rendono problematiche, molto problematiche, questa stagione politica. Io non ho inteso assolutamente sciogliere i nodi, ho semplicemente parlato, ripeto, del suo racconto. Ecco, il razzismo come un racconto che si rivolge a tutta la nazione. Parla, se avete notato, Renzi non ha il senso del passato. Quando parla al passato, dice: io facevo l'asilo, durante il sequestro Moro io ero all'asilo. Cosa vuol dire? Io non c'entro nulla con il sangue che è corso in questo paese. Io nel 78 andavo all'asilo. Ecco, i messaggi che dà: non esiste il passato, esiste il mio presente, naturalmente, il suo presente, perché c'è un tasso di soggettività enorme, la ipertrofia dell'ego. L'ego. Però io credo che chi va a potere non possa avere un ego modesto. Ecco. Chi va a potere ha. Forse sì. Sì, forse, a meno che la carica, se Mattarella ipertrofizza il suo ego nel corso di 7 anni. Vuol dire che il potere riesce a fare miracoli anche con chi ha sempre avuto un ego estremamente, estremamente controllato, estremamente anche autocritico. Ecco, non esiste il passato per Renzi, esiste soltanto il futuro. La Leopolda, io ogni tanto l'ho seguita in televisione perché non avevo il pass, bisogna avere il pass più fiorentino no, credo che sia libero ingresso, ma io ho pensato che non fosse libero ingresso, forse per seguirlo in maniera discontinua. Tutto è all'insegna, sembra quasi un movimento neofuturista, senza guerra. Ci ricordiamo Marinetti esplode in Italia passatista, arcaica, campagnola, e parla di futuro e dice anche che bisogna chiudere i musei. Renzi non lo può dire a Firenze, perché perché Firenze vive di quello, se chiude i musei chiude la città. Però ecco, il futuro è solo l'inizio, il futuro è solo all'inizio, è il mantra del razzismo, non guardarsi indietro e non dare peso al passato è un escamotaggio forte per Renzi, perché spazza le tradizioni, che a volte sono la ricchezza, anzi molto spesso sono la ricchezza patrimoniale anche delle parti politiche italiane. Questo tentativo di azzerare il tempo e di rilanciarlo è sicuramente inutile parlare di futuro in Italia, si parla sempre troppo di al passato, e anche compiangendo il miracolo economico tutto si è svolto. Firenze poi è la città in cui tutto si è svolto nel 500, quindi tutto quello che è venuto dopo è un pallido riflesso della grandezza del padre. Ecco, non è un caso che forse questo futurista sia nato nella città del passato, ecco, dove il culto dell'armonia umanistica trionfa anche a livello di bottega, intendiamoci, perché produce una ricca rendita di posizione. Sì, anche loro pure la servono. Diciamo che sentirla è veramente un grande piacere, ed è un piacere perché ogni sua espressione in qualche modo centra l'argomento in modo creativo. Voglio fare una riflessione molto rapida. Lei parla di narrazione, no? Renzi come narrazione. Allora, devo dire che la sociologia, diciamo, è un riferimento molto banale, quando parla di narrazione, di racconto, descrive il mito è un racconto collettivo che viene condiviso e in qualche modo viene ad essere la chiave di lettura, ma anche l'elemento di collegamento di una società, di una comunità, no? La mitologia è proprio questo. Certo. Però devo dire anche questo, che Renzi non è il frutto di un atto volontaristico, certamente non della sua volontà. Io credo che Renzi sia, non so io solo che lo crede, ma insomma, che sia in realtà il frutto di un'epoca, la quale questa sì ha chiuso quel passato, non Renzi ma l'epoca, ed è l'epoca della politica, è l'epoca delle istituzioni, è l'epoca in cui in realtà il mito è tramandato attraverso l'immagine, e quindi è l'epoca della teletrazia, della teledemocrazia, è l'epoca della crisi dei partiti, che non ha più nessun ruolo di scelta della leadership, no? Come si è capito? Certo. Renzi evidentemente è una crisi dei partiti, che è crisi anche del sindacato, ed è l'epoca in cui il potere si è internazionalizzato, si deve decidere rapidamente, quindi inevitabile che tutto questo porta a che cosa? Alla costruzione del leader. Non è solo un fenomeno italiano, in realtà in tutto il mondo è il leader che sostituisce i parlamenti, no? In America come in Europa, noi ormai la politica la vediamo fatta attraverso le bocche dei leader, in Germania, in Francia, è il leader che parla, e in Russia sempre solo il leader, no? Allora però ci sono delle riflessioni che riguardano noi, cioè la democrazia, perché un conto è la questione del leader, la questione del successo personale del leader, l'altro conto è la democrazia, che sia frutto della rivoluzione francese o sia frutto della costituzione italiana è qualcosa che ci sta a cuore. Allora, come è la reazione che si deve avere, la reazione che la cultura politica deve in qualche modo introdurre nella consapevolezza collettiva, anche in qualche modo quella della mitologia che unifica attraverso il rito? Beh, la prima questione che dice per esempio un nostro amico che ha insegnato a Trento, che è Sergio Fabrini, no? con il quale abbiamo condiviso anche delle esperienze politiche extraparlamentari, insomma 40-50 anni fa, la prima questione che lui afferma in questo bel volumetto, che è come ammansire il principe, ricorda un po' il piccolo principe, lui pone tre condizioni. La prima condizione è che il principe, cioè il leader, non sia solo, abbia attorno a sé un entourage che non è la corte, ma è una serie di personalità competenti, sagge, capaci di mediare con le vere realtà e con le vere difficoltà della società, essere dentro la società ed essere avanti la società, che è appunto quello che si può chiamare il consigliere del principe, ma non penso che sia nella stessa dimensione che lei poneva per Carrai. Carrai. Sì, cioè, quello che si chiama il giglio magico ormai nel linguaggio giornalistico. L'ipotesi invece che si fa, secondo questa interpretazione politologica, è che il leader, perché non diventi poi un presidenzialista, certo, peggio ancora, sì, dittatore, deve avere attorno a sé qualcuno che, sì, lo garantisce, che ci garantisce. La seconda questione molto importante, è che il leader abbia dei contrappesi. Noi siamo molto preoccupati per la questione del contrappeso, perché un leader, per esempio un leader americano, ha inevitabilmente un contrappeso, cioè ci deve essere nella democrazia, sia pure dell'immagine, sia pure del leadership, deve esserci una democrazia dell'equilibrio, che non può essere il giudice soltanto. È assurdo pensare che deve essere solo la magistratura che in qualche modo, dopo che il fatto è avvenuto, intervenga per una pura semplice repressione, cioè non si può accettare questa logica. No, questa non è democrazia, evidentemente, perché la magistratura c'è anche nei tempi, diciamo, dell'arcaismo politico. Qual è oggi il contrappeso? Qual è quel sistema che permette di dire tu, leader, devi comunque rispondere a qualcuno, che non è soltanto una risposta a porta a porta, no? Devi rispondere a qualcuno, e questo qualcuno ti può fermare. Qual è? Questa è la domanda che è la nostra questione. Certo. Concludo dicendo questo di cui stiamo parlando non è una questione nazionale, per così dire, sopra la nostra testa, è una questione localissima, perché come la politica è cambiata in piazza Montecitorio, è cambiata anche in via Crispi, cioè qui da noi, nel senso che anche per noi vale il medesimo discorso che si faceva per la leadership. Anche qui c'è bisogno di ripensare la democrazia, e per esempio ripensare che un principio etnocentrico o un principio dove c'è un assolutismo di un partito di maggioranza, no? Non è più un principio che sta alla base di una democrazia autonomistica della provincia di Bolzano o delle autonomie della provincia. Noi siamo, e questo lo dico perché forse lei già lo sa, insomma, noi siamo alla vigilia di un momento molto importante di riflessione politica, che è una riflessione filosofica, prima di tutto, prima di istituzione politica, è un pensiero che va in qualche modo affrontato, che è la riforma dello Stato di autonomia della regione. Dopo più di 40 anni quel tipo di statuto è ritenuto anche da chi in qualche modo governa questa provincia e questa regione, è ritenuto obsoleto, perché non tiene conto dell'Europa, non tiene conto della riforma della Costituzione, non tiene conto della democrazia, non tiene conto dei cittadini in sostanza. Ecco, tutto questo, ecco, questo macro, diciamo, in evoluzione, deve essere affrontato dal punto di vista della cultura. Punto, non devo dire solo politica, ma della cultura. Ecco perché secondo me questo tema è un tema che può essere consegnato in modo assolutamente pertinente al cristallo. Cioè il cristallo, io proporrei che il cristallo fosse in qualche modo l'alveo di una riflessione, a partire da quello che dice, profonda sulla trasformazione della politica, ma anche sulla trasformazione della democrazia e sulla capacità di longevità della democrazia costituzionale, di questo patriottismo costituzionale, che comunque non è l'arretrato, ma è questo sì un futuro, perché è l'unico futuro consentito nel momento in cui la globalizzazione altrimenti creerebbe il caos distruttivo, che è la distruzione reciproca di identità che non sanno accettare l'universalismo democratico, che invece la Costituzione e le regole sulla Costituzione, la regola sulla convivenza permette di avere per i tedeschi, per gli italiani, ma anche per gli arabi, per tutti quelli che in qualche modo si trasferiranno al nostro paese e l'Italia in generale. Intanto di detto questa, non la prendo con una domanda, ma con un'integrazione fondamentale alle parole che ho detto, lei le ha integrate, cioè le ha integrate sui vuoti che erano rimasti. Vale a dire, io ho sottolineato la fenomenologia emergente di una leadership. Lei giustamente ha richiamato alla necessità di riequilibrare, ecco, questa fenomenologia di vertice, altrimenti puramente puramente spettacolare, però mi sento di fare qualche osservazione, più che dare delle risposte, perché se le ha date da sé le risposte, con un'analisi molto pacata e molto lucida che ha svolto. E dice, il primo punto, un leader degno di questo nome deve circondarsi, cioè lei ha descritto la deontologia di un leader, circondarsi di una, non di una corte di yes men, ma di uomini, comunque sia, di collaboratori di primo piano. Ora, in questo momento, forse perché la politica ci viene raccontata dai media che non hanno le esigenze che lei ha posto, raccontano in maniera piuttosto mitologica e fiabesca, e in maniera estremamente facilistica. Quindi circa, viene descritto il mondo intorno a Renzi come il mondo abitato da così scelte fiorentine, bisogna essere appunto stati scelti nell'ortus conclusus fiorentino, appunto il giglio, il giglio magico, e addirittura si mettono ad almanaccare i cronisti se per esempio il recente spostamento, faccio un esempio, di Graziano Del Rio, che non fa parte del giglio magico, ma fa parte, i cronisti lo descrivono come uno di quei consiglieri provette che lei, a cui lei giustamente aspira, che Renzi intelligentemente si è portato dall'esperienza di sindaco di Firenze, quando ha capito che Graziano Del Rio sapeva rappresentare l'ANCI con la bravura dell'amministratore emiliano. Ora spezziamo invece una lancia per di Emiliano, la legge Emilia, e quindi l'ha chiamato a sé. Ora Graziano Del Rio è andato a occupare la poltrona complicatissima, perché a rischio di saltare per l'endemica corruzione italiana, perché questo è un altro punto, questo è un paese a corruzione endemica. Ed è un paese anche dove la leadership politica, ecco perché prima parlavo di acrobazia, è sotto tiro della magistratura. Bisognerà pure dirla questa cosa qui. Cioè la magistratura si esprime con un avviso di comparizione e distrugge, rischia di distruggere l'identità politica di un... Questo crea indubbiamente uno squilibrio. Cioè uno squilibrio al punto tale da mettere in crisi l'equilibrio di Montesquieu. Ecco. Allora, qui c'è il problema endemico, ecco, della corruzione. Per cui Graziano Del Rio è andato a occupare quel ministero perché è il ministero più a rischio. E i giornalisti si sono chiesti chi prenderà il posto di Graziano Del Rio accanto, accanto, perché... il giglio magico è la prossimità fisica al corpo mistico del leader. Quindi il discorso anche che fa la cronaca politica non è molto serio, ci porta sempre a raccontarci, ecco, dei piccoli miti intorno alla storia, appunto alla narrazione principale. Non c'è dubbio alcuno però che ci siano uomini anche di un certo valore che hanno una loro identità. Il ministro Paolo non appartiene né a cibi magici né a fiorentinismi di accanto, è stato voluto dalla finanza internazionale anche, perché occupava un posto di primo piano, appartiene a quella generazione di italiani come Mario Draghi, sovranazionali, cosmopoliti, non appartengono più alla nazione. Ecco, quindi Padoan, per esempio, nel mio libretto dico che mentre Renzi ringiovanisce, Padoan è come Dorian Gray, appassisce nel il volto preoccupato, porta tutti i segni della sua preoccupazione. Questo è il primo punto che lei toccava. Sa, il personale politico e il personale dei consiglieri è quello che è. Già individuare alcune persone serie, ecco, come Del Rio e come Padoan, è sufficiente per dire che è abbastanza coperto questo leader. Poi punta anche sulle immagini, sulla estetica del potere. Non c'è dubbio, ma estetica del potere deve essere giovane, deve essere piacente, deve comunicare anche un'emozione estetica, e questa è la lezione berlusconiana, non si esce. Ecco. Ora, l'altro punto, i contrappesi, non lo voglio fare troppo lungo perché io non sono mica un tecnico, sono un cittadino qualunque, ma il punto è questo: noi abbiamo presente la presidenza imperiale. Quando lei parlava, mi veniva in mente l'imperatore d'Occidente, il presidente degli Stati Uniti. Per 4 anni quel grande paese, che è una democrazia, assegna a quest'uomo il più grande potere della terra. Per 4 anni, poi se lo deve riconquistare. Ma non solo, lì ci sono autentici contrappesi, che qui non ci sono. Perché non ci sono? Non ci sono per via della debolezza parlamentare, del trasformismo, della corruzione endemica. Poi c'è un altro punto, non è per rispondere a lei, ma per ragionare noi. Il leader sarà sempre più popolare in Italia se riesce a trasmettere un'immagine di popolarità o di simpatia rispetto ai contrappesi statuali. Quali sono i contrappesi statuali? La burocrazia, che è la struttura più impopolare di questo paese. Quella dovrebbe essere un contrappeso, cioè la struttura istituzionale dello Stato. Ma se la struttura istituzionale dello Stato dà a noi cittadini sempre il senso di vessare, sordità, burocrazia, insensibilità istituzionale, ecco che un leader furbo, svelto, come Renzi, capisce subito di distinguersi dai burosauri del ministero, e quindi dovrebbero essere invece contrappesi, ed è più popolare lui dei contrappesi. Non so se ho reso l'idea. Quindi qui la leadership è molto soggettiva ed è vista a volte in contrapposizione con le strutture longeve dello Stato. Noi assistiamo alla longevità di queste strutture quando capita, come il direttore generale del Ministero dei Lavori Pubblici, potere enorme, è da 10 anni a quel punto, è passato attraverso vari governi. Vuol dire che quella struttura dovrebbe essere un contrappeso, e invece è un peso separato. Allora, il discorso dei contrappesi, che nella democrazia americana ha una sua finalità armonica, proprio perché deve correggere il più grande potere esecutivo del pianeta, in Italia non è così, perché in Italia questi contrappesi sono separati. C'è un po' una distribuzione feudale di poteri, feudale, e non a caso Renzi parla un linguaggio che a volte è simile a quello che abbiamo ascoltato da Berlusconi, a quello che abbiamo ascoltato da altri leader, cioè da altri premier. Anche Craxi diceva che la presidenza italiana è una presidenza di potere apparente, perché in realtà i contrappesi divorano tutti i margini. Insomma, è una situazione molto più complicata, trovo, e quindi trovo che sia difficile risolverla con quelle geometrie di pesi, contrappesi e di proporzioni al potere che altre democrazie possono vantare, anche per maggiore per maggiore tradizione, ma così il tentativo proprio di rispondere a quello che importa è la sua analisi, perché di questo c'è bisogno, accanto a tanto personalismo e a tanto soggettivismo fenomenologico, c'è bisogno di pesi e contrapesi istituzionali, a patto che anche quelli siano, come dire, lavorino per il cittadino, ecco, e non per sé. Penso che sia difficile ammansire il principe Matteo Renzi, ma come chiede nella sua opera Fabrini. Ma io ringrazio tutti a questo punto, ringrazio soprattutto il nostro ospite Maria Blondi, ringrazio voi per la presenza a questo dibattito che si è protratto molto lungo, ha spaziato come sull'attualità politica. Tanti auguri per la speranza di rivederci nei prossimi incontri. Molte grazie.